La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. L'uomo sta cercando di uscire da questo tunnel che non ha fine. L'uomo troverà la sua pace se saprà ascoltare la voce nelle strade dell'Arizona, nel centro di Lisbona, nelle cascate del Niagara o nelle steppe della Siberia, lungo il muro della Cina, o peggio ancora quello che crollerà in Palestina, nelle piramidi dell'Egitto, in ogni casa sotto ogni tetto. Solare sarà la strada, solare sarà la vita, perché nel sole non ci sono tormenti, il nucleare non ha i documenti per passare le frontiere del tempo, per resistere alle scorie del vento. Sarà solare il nostro cammino, il nostro essere divino. La la la, la la, la la la, la la, la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Il sole illumina tutta la terra e ci regala ogni giorno scintilla. Sono millenni che aspetta che l'uomo decida infine di liberarsi dal freno. Nelle strade della Campania, nel centro di Babilonia, nelle sorgenti di ogni Nio, nelle piazze di Berlino, nelle vette dell'Himalaya, nelle bussole del popolo Maya, nelle pianure dell'Afghanistan, in ogni musica del dio Pan. Solare sarà la strada, solare sarà la vita, perché nel sole non ci sono tormenti, il nucleare non ha i documenti per passare le frontiere del tempo, per resistere alle scorie del vento. Sarà solare il nostro cammino, il nostro essere divino. La la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Essere non significa avere, eppure a volte molti credono dare. Strappiamoci da queste tossiche strade, che abbiamo ancora bisogno di luce. Nelle zampogne dell'Irlanda, sotto i cappotti della Finlandia, nei tulipani dell'Olanda, nei cimiteri dell'oltretomba, nelle autostrade dell'Australia, negli arcipelaghi della terra intera, in ogni museo dove la storia accende il fuoco della nostra memoria. Solare sarà la strada, solare sarà la vita, perché nel sole non ci sono tormenti, il nucleare non ha i documenti per passare le frontiere del tempo,